CQ canale 10. Scusi, forse come? CQ canale 10. Il nuovo scapo si sta fissando come ci può dire, molti aprili, come facendo proprio. Hola. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10. Hola, CQ 10. Giulio! Attento Antonio Condor, ti ascolti Città di Milano, KK. Attento Milano, buongiorno anche a te. Attento l'amico Milano. Buongiorno Francesco, Giulio da Sassari, Sardegna, vai. Buongiorno, io sono in auto con 80 base e 30 Mexico. Ok, sì, arrivi bene, il segnale arrivi bene, la radio è un po' cupa, probabilmente hai qualcosina, qualche aiutino, però diciamo che bene o male riesco a capire, nonostante il QRM della propagazione. Ok, in questo passaggio non ho potuto ascoltarti, troppo bassa la modulazione, dunque non si capiva quello che dicevi. Va bene, pazienza, non fa niente, dai, vediamo un po', facciamo un altro passaggio, se è possibile continuare ad andare avanti, diversamente in quel caso lì ci salutiamo e sperando di risentirci alle prossime. Avanti ancora, Francesco. Un abbraccio, buona domenica. Buona domenica anche a te, ciao Francesco. Giulio da Sassari che ti super saluta, ti abbraccia, ciao. Ciao Giulio. Attento Luca, ci sei in ascolto? Sì, che chiamo Luca. Giulio da Sassari, avanti, chi sei tu? No, sono ancora Francesco, scusa, pensavo fosse qualcun altro. Ok Francesco, ora ti sento anche meglio di poc'anzi, lo stavo chiamando uno qua della mia stessa zona, perché di solito ci sentiamo a quest'ora più o meno, ma evidentemente oggi è un po' in ritardo. Attento Luca Flipper, ci sei in ascolto? Buongiorno da Matera. Buongiorno l'amico di Matera, Giulio ti super saluta dalla città di Sassari, cambio. QSL Giulio, buongiorno, ben ascoltato, buona domenica. Daniele qua in provincia di Matera, ti cordializza. Ok, Daniele, ok, molto, molto buona la tua modulazione, spero che anche la mia sia così, perlomeno percepibile al 100%, comunque ci ha ascoltato molto bene in questo passaggio, anche di radio, ottima. Avanti ancora Daniele, K. Sì, Giulio, confermo, modulazione ottima, al 100%, nessun problema, ti ascolto, una propagazione è buona, è buona. Ok, sì, 9 più 5 per te, radio 5 perfetta, chiarissima, no? Bellissima, meglio di una telefonata. Ok Daniele, che si dice lì, caldo tanto, qui 40 gradi, più o meno 40 gradi dove sono io. Attento Daniele Matera. Il controllo discreto il segnale, però la radio bassina, Avanti che sei con il buongiorno, Giulio dalla città di Sassari. Buongiorno amico di Sassari, io sono Roberto, sto continuando per la sua Ok, credo di aver capito Roberto, da Genova più o meno. Confermi che è così? Attento Roberto di Genova, confermi che ho detto bene, ho ascoltato bene? Certo, amico di Santa, mi dispiace ma c'è tanto problema, ci stanno scoprendo. Comunque mi arrivi benissimo, una buona giornata, ciao, buona domenica. Ok, ciao Roberto, buona domenica anche a te. Grazie per il piccolo collegamento, alle prossime, ciao ciao. Ciao, alle prossime, buona giornata con tutto. Luca Flipper, ci sei in ascolto? Attento Natalino, ci sei in ascolto? Avanti Brecco, col buongiorno, Sassari ti ascolta. Pronto, Giulio, mi ascolti ancora Matera? Sì, ti ascolto fortissimo, ti ascolto fortissimo l'amico di Matera. Roberto, confermi? Daniele, dai, si è suonato il telefono, qua ho dovuto rispondere. Ciao dai Giulio, ti sputo, buona domenica, buon QSO e ci sentiamo al prossimo. Ok Daniele, sì vabbè, scusami, avevo, siccome poc'anzi avevo sentito Roberto ti ho confuso, ti ho confuso con la sua radio. Ok Daniele, alla grande veramente, tu sei seduto vicino a me, anzi sulla mia stessa sedia, per cui non so cosa dirti, la tua radio è fenomenale, molto ma molto molto bella, oltre che forte anche di segnale. Ok, ciao Daniele, ancora alle prossime, salutoni, un abbraccio, Giulio da Sassari ti super saluta. QSL Giulio, è reciproco il segnale anche da parte vostra, quindi nessun problema, ok, ti ascolto bene, 5-9 qui in Matera, tutto Roger, dai, va bene, salutoni cordiali e ci riascoltiamo. Ok, ciao, ciao Daniele, anch'io ti ho messo una puntina di eco adesso, Ok, la radio, ripeto, molto bella la tua, 9.95 e anche 9.10 in certi momenti, la radio è una bomba, veramente bella, chiara, pulita. Ok, ciao di nuovo Daniele, alle prossime. Luca, ci sei in ascolto? Luca Flipper Sassari, ci sei? Avanti chieda. Mira, también hay una guadera allí, guapa, ¿eh? Sí, y esto lo pongo todo para mi nombre. Ya está. Luca, ci sei? Mi ha portato la torta, se la tirava.